un bel lavoro di pulizia. La cosa interessante è che c'è un posto che ha il cimitero. Io c'ho cazzo, no, è morto il fratello di Aldo, invece era Tiro. Ti ha allungato la vita. Sale, sale. E poi invece Tiro, era morto, poi vuoi salvare il fratello di Aldo. Vabbè, avevo da casa. Vai, Tiro. Allora. Ma non è un sogno cosa sulla. Non fare la sveltina, però. Non farò una sveltina, ma non farò neanche una roba eccessivamente pesante. Dai, adesso 5 minuti ce la caviamo. Sì, sì, che poi devo andare. Ti ricordo che l'indice della strage di Piazza Fontana sono 1500 pagine. Come abbiamo ricordato oggi. L'indice? Solo l'indice, 1500 pagine. Tutto su un milione di carte. In realtà è tutto il giorno che cerco di ripassare, ma non sono riuscito. Però fa niente. Niente, vi racconto poche cose, spero chiare, sulla mia tesi. Innanzitutto sul come è nata, nel senso che, vabbè, da laureando in storia l'anno scorso, l'esigenza era di studiare un argomento che avesse un minimo di pertinenza con quello che stava accadendo, ovviamente, visto che anche con l'esperienza che abbiamo fatto con l'Apsus in questi anni, abbiamo messo al centro il fatto di utilizzare la storia come strumento per leggere il presente e cercare di determinare il futuro, comunque di come dire, poterne cogliere gli aspetti man mano che si determinano. Per cui ovviamente il fenomeno più importante che era in corso era quello della crisi economica, e allora ho voluto cercare di fare un po' un passo indietro, cercando un po' quelle che erano le origini della crisi. E l'aspetto, uno degli aspetti che mi è sempre interessato di più era quello culturale, cioè come si è arrivati alla crisi economica, non solamente da un punto di vista appunto tecnico, ma cercare di indagare quali erano i presupposti culturali che avevano determinato l'avvento e l'affermazione del neoliberismo come cultura economico-politica dominante negli ultimi 30 anni. E allora, niente, ho cominciato a studiare, a fare questo passo indietro, e come tutti ormai, anche perché ovviamente non l'ho scoperto nulla, l'inizio di tutto è, come dire, nell'enorme successo delle teorie di von Mises, von Hayek, Friedman e così via. La cosa interessante però che è emersa, che non avevo mai colto tra l'altro prima di scrivere la mia tesi, è quello che c'era prima del neoliberismo. Quello che nella mia tesi ho, non io ma traendolo da autori come Harvey ed altri, quello che veniva definito come embedded capitalism, il mio inglese è pessimo però meno male che il sardo può supportare. E la cosa divertente è che appunto questo capitalismo aveva delle basi in parte diverse da quelle che poi si sono determinate con l'avvento del neoliberismo, per quanto ci trovassimo comunque all'interno di un sistema di mercato, però appunto avevano delle caratteristiche che avevano determinato un periodo di grande sviluppo e fiducia, ottimismo e crescita economica, che è la cosa più importante, sostanzialmente da prima della fine della Seconda Guerra Mondiale negli Stati Uniti fino agli anni Ottanta. La cosa che mi ha stupito e su cui non avevo mai riflettuto è che anche durante il momento di massimo splendore dell'embedded capitalism si pensava di aver raggiunto la pace dei sensi, di aver trovato il sistema migliore del mondo per garantire sviluppo, pace, prosperità, benessere dei cittadini, redistribuzione sociale, crescita economica, fatturati positivi per gli imprenditori. Cioè la vulgata era che, come dire, si era trovata la soluzione migliore. Investire nella crescita, una senza esagerare, ma comunque che appunto che garantisse comunque la crescita economica, che garantisse una crescita costante dei salari, che questo permettesse una crescita dei consumi, la ruota girava e appunto questo capitalismo di matrice keynesiana, anche se in realtà si abusa un po' di Keynes come autore perché non diceva esattamente quello che si è verificato, ma insomma l'autore di riferimento di quel periodo era bene o male lui, come dire, è stato proprio, era un vero e proprio, addirittura si era arrivato a teorizzare quel tipo di capitalismo come una scienza, come quello più, come il migliore possibile, il più perfetto, E questa cosa mi ha stupito perché, se volete, è un po' lo stesso clima che si vive oggi. Oggi forse un po' meno, perché cominciano ad esserci un po' di fratture anche in quel monopolio culturale, ma fino a qualche anno fa chi si metteva a discutere i presupposti dell'economia neoliberista veniva considerato come un pazzo eretico fuori dalla storia. Tutti ricordiamo, come dire, Fukuyama non dice, cioè dice che la storia è finita perché si è ritrovata la soluzione a tutti i mali, no? Per cui, come dire, questo mi ha fatto riflettere sul fatto che l'uomo, quando le cose vanno bene, tende a perdere il senso critico e, insomma, niente. Per cui questa è stata la prima cosa interessante che è emersa nello studio molto rapido che ho fatto la mia tesi, che si è ridotta sostanzialmente a 3 settimane. Ho una tesi triennale, sappiamo che non merita di più, anche perché nessuno l'ha letto tranne la mia prof, quindi. E per cui no, le copie, esatto. Questo è il prima. Questo meccanismo però a un certo punto si ingrippa, si rompe, comincia ad esserci qualcosa che non funziona più. E è stato interessante studiare come in quegli anni la scuola di pensiero neoliberista è riuscita a incunearsi nella frattura culturale e politica che si è aperta nell'embedded capitalismo. Una frattura culturale, appunto, nata dai vari von Mises, von Hayek, Friedman e così via, che all'inizio si ritrovavano come una vera e propria società segreta, nel senso, loro hanno fondato la Montpellier Society in Svizzera, facendo dei seminari in cui si trovavano, cioè, adesso non voglio rappresentarla in maniera troppo grottesca o da giallo, però effettivamente loro in quel momento erano molto all'angolo dal punto di vista del dibattito economico e culturale delle università. Pian piano però, appunto, sono riusciti a incunearsi dove? A incunearsi in alcuni fenomeni che si sono determinati a partire dagli anni 60. Prima di tutto, entrando a gamba tesa nel dibattito sulle libertà, sulla libertà, sul tema della libertà, che, e qui rischio di dire cose un po' scabrose, però uno dei temi interessanti è capire come, ad esempio, soprattutto negli Stati Uniti, anche perché l'Europa ha una storia un po' diversa o arriva in ritardo, come il 68 e alcune rivendicazioni dei movimenti sociali degli anni 60 e 70, oltre a portare rivendicazioni molto forti sul piano sicuramente sociale, hanno determinato uno spostamento culturale verso una rivendicazione di libertà individuali, di libertà di espressione e così via, che se in quel momento erano sicuramente, ora non vorrei usare termini scorretti e presuntuosi, però ingenuamente lanciati verso, appunto, libertà individuali come potremmo intenderle da sinistra, in realtà si sono poi trasformate in rivendicazioni, appunto, si sono trasformate in uno spirito profondamente individualista. Cioè le rivendicazioni di libertà di espressione, libertà individuale e così via, in alcuni movimenti contestatari degli anni 60, hanno prodotto un terreno fertile su cui il populismo libertario dei neoliberisti ha trovato, appunto, un'espansione, e che si è trasformato negli anni nella libertà di consumare, nella libertà di accesso ai beni, nella libertà di poter avere un mutuo per la casa, nella libertà di potersi esprimere, di poter esprimere il proprio successo, la propria realizzazione, anche, appunto, attraverso forme di consumo, di benessere economico, che, se volete, erano un po' il frutto di quegli anni. Ricordiamoci che veniamo da un periodo di florido sviluppo industriale, economico, post-bellico, che produce sicuramente una middle class che era uscita distrutta dalla guerra, che aveva visto, appunto, una rinascita culturale ed economica, e che si trova ad avere portafogli che prima non aveva, e per cui, appunto, rivendica la possibilità di consumare, di benessere economico, sociale e così via. Quello è uno dei primi, come dire, dei primi spiragli su cui loro fanno breccia, e fanno breccia su, innestandosi anche sul discorso, ovviamente, della presenza e della pesantezza dello Stato nell'economia. Nel senso che. Nel senso che indubbiamente lo lo stato sociale vede una crescita esponenziale negli anni del dopoguerra. Da un lato, vabbè, chiaramente nell'esperienza sovietica, che però è una cosa completamente diversa, che però, se volete, in un'ottica di conflitto costringe l'Occidente a tutta una serie di compromessi con, appunto, la middle class, i lavoratori e così via, che determina un po' quello che noi abbiamo conosciuto come il welfare state, appunto, degli anni 60, 70, 80, quindi aumenti salariali, migliori condizioni di lavoro, contratti migliori da un punto di vista, appunto, dei diritti, della qualità del lavoro e così via, delle ore di lavoro, insomma tutto il panorama che conosciamo, che negli ultimi 30 anni è stato pezzettino smantellato. Ecco, se quelli erano i risvolti positivi, dall'altra parte è indiscutibile che la spesa pubblica a un certo punto inizia a degenerare, che lo Stato viene visto sempre in maniera più negativa, appunto, da questo contribuente che si sente oppresso, che si sente defraudato di risorse che potrebbe utilizzare per consumi e per spese differenti. Anche su questa breccia si inseriscono in maniera molto intelligente i membri della Montpelier Society, che a breve diventerà la scuola di Chicago, e tutto quel mondo di economisti che ruota ai personaggi di cui ho già parlato. Tutto questo accade anche perché avviene una vera e propria offensiva culturale, politica e sociale da parte di questi soggetti. Perché questo? Perché negli anni Ottanta assistiamo anche ad una serie di cambiamenti, di stravolgimenti non solamente culturali, che faranno da traino per quella che poi io ho chiamato alla fine controrivoluzione reaganiana. Prima di tutto la rivoluzione tecnologica. L'avvento delle nuove tecnologie, del digitale, dell'informatica e così via, stravolge il modo di lavorare. La fabbrica fordista piano piano si modifica, adesso anche qui non sto a farla lunga, ma appunto l'avvento delle nuove tecnologie, internet, la possibilità di parcellizzare il lavoro, di differenziarlo, di renderlo potenzialmente procrastinabile sulle 24 ore in teoria, cioè proprio cambia, si stravolge l'organizzazione del lavoro tradizionalmente intesa fino a quel momento. Tutto questo favorisce la finanziarizzazione dell'economia, quello che appunto che oggi vediamo esplodere in maniera così sanguinosa. Perché questo? Perché sì, come dire, i meccanismi economico-finanziari il mercato economico-finanziario cresce in maniera sempre più significativa. Questo anche perché lo sganciamento delle monete dal legame con l'oro determina una fluttuazione, poi in realtà sono meccanismi economici complicati, tra l'altro rischio di dire cose orribili davanti a una persona che ne sa sicuramente più di me. No, però... però come dire, anche lo sganciamento del dollaro dall'oro determina determina un cambiamento profondo e significativo in quello che è il rapporto tra le monete, il rapporto tra gli equilibri monetari e così via. Ed è un altro dei meccanismi che innesca la finanziarizzazione dell'economia, perché adesso sarebbe lunga, sono troppo lunga da spiegare, però è un altro dei fattori che determinano un cambiamento significativo. Quindi sull'onda di tutto questo, un'altra dei punti interessanti che ho studiato nella mia tesi è proprio il fatto che tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 si stravolgono i paradigmi che erano stati propri del capitalismo che vi ho descritto prima, e se ne innescano di nuovi, che sostanzialmente si possono appunto riassumere in tre punti. Il primo è quello del discorso del cambiamento dei paradigmi lavorativi della rivoluzione tecnologica. Il secondo è quello legato al ruolo dello Stato, che viene incredibilmente ristrutturato e pian piano ridotto, comunque stravolto rispetto a quello che era prima nell'intervento economico. E terzo, il discorso dell'avvento dell'economia finanziaria e dell'ipercapitalismo finanziario. Come è stato possibile tutto? Ah, ecco, a chiudere, una delle cose più interessanti che ho trovato in un libricino, tra l'altro abbastanza, come dire, piccolo ma molto, molto più valido di tanti mattoni che si studiano, è proprio mi sono perso no, è proprio che adesso non mi ricordo neanche l'autore, aspetta che devo vederlo, tanto non è la tesi. Il professor ho perso. Arrivo, Cantaro, che scrive questo libro che si chiama La modernizzazione neoliberista, teorizza esattamente che appunto tra la fine degli anni 70 e inizio degli anni 80 assistiamo a un passaggio da una modernizzazione di un certo tipo, che lui definiva keynesiana, comunque come quella che avevo detto all'inizio, e la nuova modernizzazione neoliberista, che si basa su quei tre paradigmi che ho detto, quindi distruzione del modello fordista, finanziarizzazione dell'economia, cambiamenti dei paradigmi dell'organizzazione del lavoro e crisi del ruolo dello Stato e dell'intervento dello Stato nell'economia. Tutto questo determina un cambiamento epocale nei meccanismi di accumulazione del capitale, che è esattamente quello che è in crisi oggi, cioè quei meccanismi di accumulazione del capitale, di accumulazione della ricchezza da parte di quelli che prima si chiamavano padroni e che poi diventano manager e consigli di amministrazione delle aziende e così via, come dire, nasce, si vince come modello organizzativo, come modello di gestione del capitalismo alla fine degli anni 70, inizio anni 80, ed è il modello che oggi in teoria è in crisi, anche se bisogna vedere come ne usciamo, perché non è detto che sia in una crisi negativa per loro. Tutto questo come avviene? Avviene, a mio modo di vedere, in quello che ho scritto nella mia tesi, anche attraverso una fortissima e devastante rivoluzione culturale o controrivoluzione culturale, che permette l'avvento in università, fondazioni, organismi decisionali, organismi governativi, banche, istituzioni finanziarie e così via, appunto con la sostanziale presa del potere da parte di uomini figli della cultura neoliberista esattamente in quegli anni, attraverso una disponibilità di capitali, di liquidi economica devastante messa a disposizione da tutto un mondo che è quello che Aldo chiama nel suo libro 2012 La Grande Crisi il militare industriale presente negli Stati Uniti, che foraggia in maniera decisiva questi personaggi, questi presunti studiosi, e che sarà il motore appunto di questa rivoluzione culturale, che avrà anche delle propaggini militari, pensiamo ad esempio al Cile di Pinochet piuttosto che ad altri esempi ben noti, e che si articola appunto nel mondo occidentale e non solo in forme diverse in base anche al contesto politico e culturale che non si trova. Ripeto, in Cile viene instaurata una dittatura militare, negli Stati Uniti si avvia una nemmeno troppo lenta rivoluzione culturale che porterà di lì a breve ad un dominio pressoché assoluto dal punto di vista culturale delle teorie neoliberiste in quasi tutte le università americane. Una delle cose interessanti che ho fatto nella mia tesi è stata una mappatura delle fondazioni culturali che nascono negli Stati Uniti in quegli anni, andandomi anche a leggere gli statuti, gli atti fondativi di queste fondazioni. Sono tantissime, e se poi avete voglia vi andate a vedere, i bilanci di queste fondazioni sono robe stratosferiche, nell'ordine di centinaia di milioni di dollari, per non dire miliardi e così via. È evidente che nel momento in cui tu hai a disposizione una quantità di liquidi che nessun altro può mettere a disposizione, conquisti i luoghi più significativi, più importanti di tutte le università americane, hai a disposizione, hai il controllo dei meccanismi di comunicazione di massa e non televisivi, radiofonici, giornali e così via, è chiaro che tu puoi portare avanti una vera e propria controrivoluzione, prima culturale e di conseguenza politica. Questo è un altro dei pezzi interessanti, capito, quello che a me hanno interessato nel lavoro della mia tesi. Vi faccio solamente alcuni esempi delle fondazioni più importanti. Ad esempio, in tutto questo, vabbè, poi dopo aggiungo un pezzo perché è un'altra cosa interessante. Legal Forum, che è un forum pro family negli Stati Uniti. L'Heritage, in realtà non è fondamentale, ma poi vi spiegherò perché è interessante. l'Heritage Foundation negli Stati Uniti, la Hoover Institute della Stanford University, Hudson Institute sempre negli Stati Uniti, IEA, Institute of Economic Affairs sempre negli Stati Uniti, il sito della Montpellier Society, National Review, che è ancora oggi una delle principali riviste conservatrici americane. Insomma, ce ne sarebbero altri, ma vi faccio questi esempi. Cioè, in quegli anni l'America è un fiorire continuo, appunto, di fondazioni, riviste, giornali, quotidiani e così via, che giorno dopo giorno costruiscono il consenso intorno al pensiero neoliberista. Che cosa avviene intanto in quegli anni per, come dire, arrivare a completare il quadro del perché Reagan poi vincerà le elezioni e darà il via insieme alla Thatcher a quella che gli autori hanno definito controrivoluzione liberista, è la crisi del Partito Democratico Americano e in generale dei movimenti progressisti di sinistra, comunque insomma, che erano stati i baluardi dello Stato sociale fino a quel tempo. Perché avviene questo? Sicuramente per una questione, per quello che ho detto prima, per una questione culturale di, come dire, sfondamento di culture consumistiche e così via, ma anche perché, ad esempio, si crea, e questo vale in particolare negli Stati Uniti, un asse fortissimo tra manager finanzieri, industriali e quei pezzi di società iperreligiosa presente negli Stati Uniti, che sono bacini elettorali enormi, che fino a quel momento non avevano mai votato repubblicano. Votavano democratico, perché comunque da parte democratica c'era uno sguardo sulla famiglia, c'era una tutela appunto sociale che comunque aveva tenuto insieme una sorta di patto elettorale, che si rompe. Questo avviene anche sull'onda sempre dei movimenti sociali degli anni 60, il movimento l'emancipazione dei neri e così via, come dire, crea fortissime frizioni appunto in questi movimenti cattolici, religiosi, che sono comunque molto forti soprattutto negli Stati Uniti, e questo rinsalda quell'alleanza elettorale tra appunto repubblicani tout court, conservatori tout court e appunto frange e gruppi religiosi, che determinerà la sostanziale vittoria di Reagan. Reagan vince perché conquista tutti gli stati del Sud America, che erano stati a maggioranza democratica fino a prima della sua vittoria, e che appunto sono stati dove hai una presenza diffusissima di queste comunità religiose e così via. Questa saldatura permetterà, come dire, è uno dei motivi, proprio se si va a guardare nelle cifre, determina la vittoria di Reagan e il suo exploit anche nella riconferma quattro anni dopo, nell'84. Sempre nell'ottica importanza dell'egemonia culturale, per intendersi, un predicatore americano di cui noi potremmo ridere a crepapelle perché pensiamo che sia un pazzo fanatico di una chiesa inventata del Texas, era uno che era in grado di parlare attraverso la sua radio a 15 milioni di elettori americani. Allora, quando tu parli a 1, 2, 10, 15 milioni di elettori americani, cominci a spostare. Se tu ti conquisti l'alleanza elettorale di X gruppi di questo tipo, alla fine vinci le elezioni degli Stati Uniti. Per cui, come dire, la rivoluzione culturale che è stata portata avanti non è semplicemente una roba lontana da noi che i giornali o il Partito Democratico hanno dato in crisi. È stata un'operazione politica condotta scientificamente, con un'audacia, secondo me, molto, molto significativa, e che ha portato ad instaurare una vera e propria, a perseguire una vera e propria vittoria culturale, che ha permesso per 30 anni di non poter intaccare quella che poi si è, cioè, la cultura neoliberista che abbiamo conosciuto. Cerco di farla finita perché sennò mi dilungo. Qual è l'ultima parte della mia tesi? È quella appunto che tira la volata alla vittoria di Reagan e poi un bilancio delle politiche economiche di Reagan. Negli anni, tra la fine degli anni 70 e inizio degli anni 80, vengono compiuti una serie di, fra virgolette, esperimenti in cui che sono i prodromi della controrivoluzione neoliberista. In che senso? Nel senso che appunto sull'onda di quella crisi fiscale dello Stato di cui ho accennato prima, sull'onda della disillusione dell'elettorato democratico verso i suoi dirigenti, sull'onda dell'oppressione vissuta dal cittadino da parte dello Stato sotto forma di tasse, sotto forma di spesa pubblica, sotto forma di allargamento dei diritti civili anche ai movimenti neri e così via, che viene vissuta in maniera negativa da una certa fetta della società americana, ci si trova a un certo punto appunto a compiere questi esperimenti. Ad esempio, lo Stato di New York versa in condizioni di crisi catastrofiche, o meglio catastrofiche. Il debito pubblico fino a un certo punto veniva considerato come un elemento strutturale accettabile dell'economia di uno Stato, in questo caso di una città, anche se sappiamo che New York ovviamente ha tutte le caratteristiche di una città-Stato, e quindi non era un problema se un governo aveva una percentuale di debito, perché si sapeva che con la crescita economica si poteva garantire quel debito e la ruota continuava a girare, più o meno come è stato nei nostri paesi fino ad oggi. Che cosa succede a un certo punto? Che applicando quelle che erano le teorie appunto di neoliberisti, si decide di mettere un punto a questo tipo di politiche. Lo Stato di New York a un certo punto decide di non portare più avanti questa politica, e questo si trasforma in politiche di licenziamento forsennate di pezzi di apparato pubblico. Per cui si dice: benissimo, noi abbiamo una situazione di crisi, non possiamo più permetterci di avere un bilancio in deficit, dobbiamo perseguire il pareggio di bilancio come primo e unico fine per permettere all'economia di ritornare a girare, al cittadino di non essere oppresso dalle tasse, di ridurre le tasse. Riducendo le tasse noi allarghiamo la borsa, cioè non vessiamo più il cittadino per quanto riguarda appunto la pressione fiscale, come si dice, il prelievo fiscale a livello di tasse. Questo dovrebbe incentivare il cittadino nella spesa, nel consumo, che era quello che dicevo prima, che si rivendicava in maniera abbastanza diffusa. Quindi l'economia riparte e quindi si instaura un nuovo meccanismo di crescita positivo. Questo viene applicato appunto attraverso, cioè dicendo: noi non siamo più disposti a spendere per avere un apparato pubblico molto vasto, per una spesa sanitaria che vada a coprire determinate fette della società e così via, chiudiamo i cordoni della borsa. Questo esperimento viene fatto nello Stato di New York per primo e verrà applicato paro paro a livello internazionale subito dopo. Cioè la vittoria che viene fatta, adesso sono bollito, non mi ricordo esattamente qual è il caso, qual è l'esperimento preciso su New York, però ad esempio è lo stesso, cioè è la stessa politica che viene portata avanti con i sindacati inglesi dalla Thatcher e così via, cioè zero contrattazione sindacale, tagli e chiusura appunto della spesa pubblica. Il successo di queste iniziative porterà al definitivo avvento a livello di politiche economiche negli anni 80 con l'elezione di Reagan e nei 30 anni a seguire. Volevo dire qualcos'altro? No, più o meno no. Quindi, no, in realtà sì. Tutto questo per dire cosa, in realtà? Perché questo incontro in teoria è il primo di quattro verso il discorso dell'assedio di Francoforte, la BCE, le giornate di Francoforte e così via. Che, preparando la mia tesi, appunto, ho riconosciuto il fatto che l'intuizione di andare a ricercare in quegli anni le origini della crisi di oggi non era così, così sbagliata. E mi sono però reso conto di come, o meglio, la riflessione che vorrei fare è che secondo me a tutt'oggi ancora non abbiamo compreso fino in fondo quali sono state le caratteristiche di quella controrivoluzione, o meglio, non ho la presunzione di dire che non le abbiamo comprese, perché per carità non sono nessuno per dirlo, però non lo so, penso che guardando a quelle giornate, alle giornate di assedio alla BCE, piuttosto che al discorso del non pagare il debito e così via, cioè una riflessione che andrebbe fatta da un punto di vista culturale, politico ed economico sulle nostre rivendicazioni, le nostre scelte, anche le nostre pratiche, è quella appunto dei contenuti che vogliamo dare alle nostre lotte. Nel senso, Io non sono così convinto che affermare di non pagare il debito sia una rivendicazione politica corretta. Perché non è non pagando il debito che si esce dalle politiche economiche che viviamo. Ora, non voglio fare... cioè, ripeto, non ho i galloni per fare certi discorsi. Però, come dire, il problema vero qui è che quel tipo di capitalismo, di ipercapitalismo finanziario, speculativo, fondato sulla finanziarizzazione dell'economia e così via, che in crisi lo vediamo tutti. Ma il problema è che non riesce a trovare una via di fuga. Cioè, e non è non pagando il debito che, secondo me, si può trovare una via sensata di uscita dal colo cieco in cui ci siamo infilati. Non sono nessuno per fare delle proposte concrete, però alle volte secondo me rischia di essere una rivendicazione un po' miope. Cioè, studiare in maniera più approfondita i meccanismi della speculazione finanziaria, i meccanismi dell'economia, dell'ipercapitalismo finanziario, della rete, come diceva anche Carlini nel suo intervento la sera di Un Mondo Senza Wall Street, che oggi come oggi governa l'economia mondiale, può spostare capitali da un secondo all'altro, da una parte all'altra del mondo, secondo me è assolutamente urgente, necessario, strategico, anche per capire come strutturare e pensare temi, rivendicazioni, forme di lotta da mettere in pratica. Perché altrimenti rischiamo di fare delle lotte sacrosante, giustissime, necessarie, ma in cui spariamo all'obiettivo sbagliato. Non so, questa è l'impressione che ho io. Ed è anche un po' frutto dello studio che ho fatto, per cui, insomma, niente. Se avete domande, dubbi o perplessità, non fatemeli. Devo scappare, però è interessante. Anzi, se mi puoi mandare la tua... poi la borda, mi è questa. E parte da... Spiega un paio di suggestioni di cose che mi vengono in mente mentre dicevi, a partire da cosa sono assolutamente d'accordo, sono critico anche rispetto all'impostazione del diritto al default e cose così. Più l'idea che mi preoccupa è più non vedo le forze sociali in grado di gestire questa cosa qua, nel senso non vedo forze sociali nella società in grado di proporre e di mettere questa nell'agenda politica e di sostenere. Quindi ad esempio c'è il libro di Chesnay, Diritto al Default, che è molto bello, spiega bene come questi debiti possono essere considerati illegittimi secondo la teoria dei debiti legittimi, però poi sul più bello quando si dovrebbe dire come poi tu devi farlo, non te lo dice. E quindi sono assolutamente d'accordo su quello lì. E invece mi interessava tornare al passaggio alla decada degli anni 70, che è assolutamente centrale, come hai detto tu, per capire i debiti di oggi, la situazione odierna. E in particolare avevo lanciato due suggestioni su quegli anni che secondo me sono interessanti. Una viene proprio da Harvey. Nel libro di cui parlavamo prima, che è Una breve storia del neoliberismo, c'è un grafico molto interessante lì. C'è un grafico molto interessante che guarda la remunerabilità del capitale, cioè per ogni dollaro che investi quanti soldi prendi. E guardando nel periodo dal post-guerra fino agli anni 70, vedi che la remunerabilità del capitale ha un picco in discesa e poi dalla metà degli anni 70 inizia a risalire. E poi alcuni spiegano questo passaggio qua come la chiusura del ciclo storico del fordismo, dell'embedded capitalismo, del welfare state, del Keynesian welfare state, a seconda degli autori lo definiscono in modo diverso, e quindi la chiusura di quel modello economico lì, il raggiungimento dei massimi di un modello che si basava su produzione di massa, consumo di massa, e che iniziava a essere non più remunerativo dal punto di vista dell'investimento del capitale, e allo stesso tempo già dalla fine degli anni 50 e 60 la rideregolazione dei mercati finanziari. Ecco una suggestione interessante guardare al primo esempio degli eurodollari, che erano queste masse di dollari detenute dalle banche, soprattutto dalle banche inglesi, che non essendo sotto il controllo del governo americano sono stati deregolamentati prima dalla serie di regole che negli Stati Uniti c'erano sulle investimento del capitale sulla possibilità di muovere il denaro, e che quindi hanno iniziato a essere usati come leva finanziaria per generare ulteriori introiti. Ed è interessante, questo Elaine ha scritto un capitolo nel suo libro che spiega i euro-dollari sono stati un primo grimaldello per ricostruire la libertà di movimento dei capitali che era stata ridotta dopo il crack del 29. E quello è molto interessante perché fa vedere non solo come in un momento di crisi del modello capitalista fordista c'era la possibilità di investire quote di capitale in altri settori e averne ritorni più remunerativi, quindi c'è un razionale per lo spostamento di quote di capitale da produzione industriale alla finanza, ma anche perché spiega come quali erano i meccanismi politici che ci stavano dietro, quindi come questo poteva essere un vantaggio per gli americani nella diffusione del dollaro come moneta centrale, che oggi è fondamentale per la loro economia, ad esempio per gli inglesi che sono stati i primi a aprire i mercati per rimettere al centro la finanza globale e la City londinese. Quindi ti dà l'idea di geopolitica, ti dà l'idea di come la deregolamentazione dei mercati finanziari non sia un fenomeno successo nel vuoto, ma è stato un fenomeno politico che è stato spinto da delle considerazioni reali. Insomma, non è un fenomeno naturale, è stato un fenomeno che è pianificato, cioè per pianificato non voglio implicare nessuna teoria del complotto o cose del genere, ma semplicemente era remunerativo, funzionava, è stato portato avanti, e che quindi ci sono delle responsabilità politiche da parte anche degli stati, e essendoci responsabilità politiche, volendo ci sono, potrebbero essere potenzialità di riregolamentare parte di questo mercato. E l'ultima suggestione che volevo dare era sulle diverse forme del neoliberismo, che come progetto culturale molto ampio, un albero vero e proprio con diversi rami, e c'è una in particolare che secondo me è molto interessante per capire la omogeneità della politica italiana ed europea, ed è guardare al progetto della Third Way di Giddens, che è il progetto che ha ispirato Blair e la nuova socialdemocrazia europea, e che da Blair ha ispirato un po' tutti i partiti, che Blair prendeva in parte da Clinton e che poi ha ispirato tutti i partiti socialdemocratici europei, che è un'accettazione in chiave socialdemocratica delle parti fondamentali del neoliberismo. E questo spiega come quella che è stata la sinistra anche italiana, a guardare a questi fenomeni spiega come anche quella è stata la sinistra italiana, non ha più messo in gioco tutta una serie di schemi che erano che ha invece messo in condivisione con il neoliberismo le destre, e secondo me è un capire come la Third Way ha funzionato è interessante per capire come tutto il movimento della seconda metà degli anni 90 e 2000 del PD, DS, e come loro hanno spinto politiche che erano del tutto di finanziarizzazione della società, che erano del tutto in linea con quelle delle destre. Un esempio concreto su tutti, lo scippo del TFR che viene lavoratori viene consigliato di mettere in fondi pensioni, quindi di spostare quote del loro salario, la pensione e salario, nei mercati finanziari, perché i fondi di pensione private si remuneravano attraverso questo, quindi questa assorbire di quantità di denaro da lì. E su dei diversi tipi di neoliberismo c'è un capitolino in un libro del 2009 di Andrew Gamble che è veramente carino, dove ti fa una mappa dei diversi neoliberismi. Il libro si chiama The Spectre at the Feast. Lo spettro al banchetto. Però non so se c'è in Spectre at the Feast. Però non sono sicuro se il libro è tradotto. Però come si chiama lui? No. Nel caso ve lo traduce Ale al volo via Skype, dal contatto. Vabbè, tanto poi ci scrivo. Ma invece volevo dirti una cosa sulla questione degli slogan, anche il corteo che c'è stato adesso, il debito non lo paghiamo, così. Secondo me c'è un'ambiguità nella sloganistica che porta a dire... che porta a non far capire cosa sia pagare il debito. Tipo in una delle autoformazioni che si erano fatte qualche tempo fa si diceva che bisogna, come dire, operare una divisione tra il livello micro e il livello macro dell'economia, cioè che un discorso, parlare di default nazionale è un discorso pur parlé, parlare di insolvenza sociale, quindi a livello così familiare, è invece un, come dire, un ragionamento tutto politico, ma che non serve a, come dire, a rispondere al problema della crisi. Serve a, come dire, legittimare, mettere un cappello, raccontare un fenomeno di illegalità diffusa. Cioè, di fronte all'avanzare degli eventi per cui persone in crisi, come dire, rimettono in campo pratiche di autoriduzione, di non pagamento, di morosità, eccetera, eccetera, alcune dovute anche prepolitiche, l'insolvenza sociale è lo slogan che dovrebbe, come dire, dare un senso, una direzione, una ragione a queste pratiche, no? E dire supportare queste forme di riappropriazione indiretta di reddito, di salario. Il discorso sul default nazionale invece è un ragionamento meno legato al, come dire, i motivi per cui si fanno ancora i contromeeting è proprio perché non ti sono venute idee migliori, non è perché si va a portare una proposta di appoggio al default. Il default è un termine che si, come dire, si utilizza, che tutti gli attori utilizzano con motivazioni diverse per evidenziare l'enormità del problema, non per indicare soluzioni. Cioè, nel senso, il termine è ambiguo, però è ambiguo il nostro utilizzo. Cioè, se stiamo parlando appunto di macroeconomia o se stiamo parlando invece di, certo, fenomeni reali che, a cui tu cerchi di dare una lettura politica, no? Che in qualche modo poi chiaramente spinge in avanti la palla perché la ributta dal, come dire, dal tema delle utenze dell'affitto o al tema invece della questione, non so, dell'accesso ai beni culturali, o dell'accesso all'informazione, all'educazione, di come organizzare o comunque tutelare il mancato pagamento di tutti quelli che sono i tuoi, così, la tua socialità, il tuo stare nelle persone, la tua produzione di senso e di vita. Però sono proprio due fenomeni diversi. Poi si usa la parola debito che mette tutto insieme, ma è solo perché conosciamo poche parole, cioè nel senso perché facciamo confusione. Ma sono due fenomeni, cioè, estremamente diversi. Infatti le robe di Francoforte non è che dicono organizziamo il debito, il mancato pagamento del debito, o organizziamo o spingiamo in là il default nazionale. Cioè il tema è che come si utilizza operativamente, quello che hanno fatto i bolognesi con Santa Insolvenza era quello. Cioè organizzare e dire la gente non ce la fa più a pagarsi l'affitto, la macchina, le rate, il mutuo, allo stesso modo invece non soltanto questa roba qua, come dire, è l'effetto di una crisi che non abbiamo creato noi, ma dobbiamo collettivamente garantirci anche l'accesso al cinema, al teatro, alla scuola, alla sanità. E quindi questo si fa anche attraverso pratiche collettive, individuali, insomma. Però sono due fenomeni. Per quello, secondo me, piuttosto che parlare di no debito, come lo slogan del corteo milanese, è meglio distinguere tra la questione del debito, del default, eccetera, eccetera, in termini macro, e la questione dell'insolvenza sociale, che sono due ambiti differenti. Prima che lui voleva intervenire. Non mi piace ascoltare. No, son d'accordo e la mia critica era un po' centrata. Però ribadisco il fatto che secondo me troppo spesso, soprattutto tra i compagni, c'è un atteggiamento di indigestione verso l'economia e la finanza che dobbiamo cercare di superare. Perché io ammetto che studiare economia, studiare finanza è una rottura di palle, perché sono robe tecniche, sono robe complicate, però non maneggiare quella materia vuol dire essere assolutamente impotenti davanti al vero nemico. Cioè, ripeto, è una gran rottura di scatole, perché poi soprattutto per noi che veniamo da materie umanistiche dove non ti insegnano nulla di queste materie, però c'è, non lo so, secondo me a costo di rompersi le scatole va fatta. Infatti in realtà no, a questo punto ti presento, ma se sono... lui ci ha scoperto non so come, tra l'altro lapsus, forse perché su internet. Ah, perché sei venuto alla fase di un mondo senza Wall Street. E mi ha telefonato per chiedere informazioni su chi eravamo, e gli ho dato appuntamento stasera per incrociarci e conoscerci, e ho scoperto, perché mi ha raccontato, però poi, che è una studioso, diciamo così, studioso di finanza, attore anche in un certo qual modo dei mercati finanziari, però questo dice. E da qualche anno ciuccio i soldi a Merrill Lynch e a Goldman Sachs. Lo faccio in privato, ma vabbè, adesso Non sei il trader di Indie Media, vero? C'era un trader che scriveva sempre sì. su Indie Media. Io ho mandato a Indie Media le cose, alcune cose che hanno pubblicato sul G8. Adesso martedì mi hanno invitato. C'era uno che si chiudeva. Perché ero là al G8 a filmare. L'unico rapporto che ho avuto con Indie Media è quello lì 10 anni fa. Niente, dai, però la sua proposta era di collaborare su. Beh, la proposta della settimana la faccio lunedì, esatto, quando ci vediamo. Adesso invece, visto che avete detto alcune cose, volevo fare alcuni postille, così magari vi è utile. Allora, debito privato e debito pubblico in realtà hanno lo stesso meccanismo, quindi potrebbero essere considerate allo stesso modo, e anzi, se li considerassimo nello stesso modo, posto che li conosciamo, avremmo in mano un'arma eccezionale per stare contro il sistema. Mi spiego. Che cos'è il debito pubblico? Il debito pubblico è una roba, è una bufala. Se la vediamo per quello che è una bufala. Cioè, noi abbiamo soldi, ok? I soldi siano cartacei o che siano click di computer, ormai circa 9 decimi sono click di computer, non sono neanche più cartacei. Questi derivano da debito, cioè vengono prodotti dal nulla nel momento in cui c'è debito. Vengono prodotti dal nulla a vantaggio di chi gestisce la produzione dei soldi, per l'Europa e la BCE, per l'America, cioè per il mondo e la Fed, che sono due banche private. Aspetta, perché non capisco, sta parlando di signoraggio? Non solo, questo è quello di primo livello, se vuoi. Io nella mia teoria io arrivo al quarto livello nel signoraggio. Perché è una teoria molto contestata, tutto quello sul signoraggio, in particolare. Non è, non è contestata. Nel momento in cui la BCE produce un milione di ma quanto, debito quanto pubblico prodotto, non si... un miliardo di euro in due tranche di, okay, che ha dato alle banche private, sì, si ha prodotte dal nulla. Sì, però non sono d'accordo se tu mi parli di debito pubblico in questo senso, perché il debito pubblico è il deficit annuale che si accresce, il debito statale. E il deficit annuale non è il pagamento degli interessi alla BCE. Il deficit annuale è la differenza tra quanto tu incassi in termini di... E quanto spendi. E quanto spendi. Sì, sì, no, quindi, nel senso, sì. una critica alle teorie del signoraggio, che non c'è una... Non è una teoria, esiste il signoraggio, è un dato di fatto. Il signoraggio esiste, sì. Il signoraggio esiste, però c'è un po' una teoria del signoraggio che va ben oltre il signoraggio in sé, perché gli economisti più classici ti dicono che il signoraggio è chiaramente la differenza di reddito che viene dalla produzione della moneta, quindi tu produci moneta, qual è il costo nel produrre questo, e la differenza tra questi due determina il signoraggio, c'è sempre stato storicamente. E dicono che il signoraggio non è forza fondamentale per capire l'economia. Molti gli economisti classici dicono questo. Poi c'è la teoria del signoraggio che invece dice che il debito è legato al signoraggio. E io con quella teoria ho più dei problemi, perché il debito... Beh, adesso però... Ah, ecco, volevo solo sapere se tu ti stavi facendo... Non precisamente, però... Scusami. Esatto. Tu citavi anche prima gli anni 70 e gli euro-dollari. Si tratta di capire esattamente cosa è successo nel 71-72, nell'agosto del 71, quando Nixon ha detto: ok, sapete cosa c'è? Il dollaro non ha più oro dietro. Mi sembra una cosa banale, ma è lì. È esattamente lì l'inizio, come dice lui, di quello che adesso sta andando a crollare. Perché? Perché il signoraggio classico, come è sempre esistito, da quando è nata la moneta, quindi da Creso, Grecia mitologica, ai Romani, eccetera, era: io ho qualcosa e ci faccio la cresta, sostanzialmente, l'agio del Signore. E do una moneta da un ducato, e in realtà c'è un po' meno del ducato d'oro. I fiorentini hanno fatto le prime banche, hanno finanziato tutte le guerre che ci sono state in Europa per 300 anni, hanno finanziato tutti i governi. E il primo crollo finanziario, prima ancora del 29, è successo a Firenze. Però questo sarebbe un altro discorso, ci porta lontano. Il punto è che quando gli Stati Uniti hanno detto al mondo il dollaro, che è l'unica moneta che rimane convertibile con l'oro, da domani non lo sarà più, hanno fatto una cosa che ha questo tipo di valenza. Noi stampiamo dollari senza più nessun limite. Il fatto che fosse convertibile con l'oro voleva dire che c'era un limite fisico, e vuol dire che la moneta era limitata in qualche modo. Che poi questo comportasse comunque enormi problemi geopolitici, tanto per cominciare il razzismo esagerato in Sudafrica dove si produceva l'oro in gran parte, questo è un altro problema. Ma il punto è che aveva un limite la moneta. Nel momento in cui gli americani hanno iniziato a stampare moneta dal nulla, e la Fed è una banca privata, okay, di proprietà delle banche d'affari che non a caso adesso infestano il pianeta e sono i veri padroni. Quando si dice che Draghi piuttosto che Monti, cioè sono uomini di Goldman Sachs, ma perché Goldman Sachs è una degli azionisti di riferimento della Fed, e la Fed stampa dollari di cui, che ha riempito il pianeta di questi dollari che non valgono nulla, perché con quei dollari loro hanno finanziato il loro disavanzo di bilancia commerciale dagli anni 70 ad oggi, per l'appunto. Comunque, quello che volevo dire, noi in uno Stato ha bisogno di liquidità, perché che per far funzionare l'economia abbiamo bisogno dei soldi. Perfetto. Quando vengono generati i soldi? Vengono generati nel momento in cui c'è un debito. Questo è il cuore della teoria di Friedman. Poi ve la spiegherò meglio se parliamo di questo. Cioè, adesso non parliamo di signoraggio, non parliamo del debito pubblico, magari. Parliamo del debito privato, ma il meccanismo è lo stesso. Quando tu vai in banca e chiedi un mutuo, e la banca ti dà, mettiamo, 100.000 euro di mutuo, e ti lascia un assegno circolare o fa un click verso il tuo, quello che ti dà la casa, la banca mica ha 100.000 euro, ti dice che ce le ha. Ha per gli accordi fra le banche, che si chiamano Basilea 1, 2, 3, con Basilea 1 di 15 anni fa avevano il 2%. Con Basilea 2 avevano dal 5 all'8%, adesso al massimo hanno il 10%, cioè si chiama principio della riserva frazionale. Questa è una cosa banale che conoscono un po'. Cioè, quando la banca ti presta 100.000 euro, lei ha nei suoi depositi 10.000 euro. È chiaro che nel momento in cui tu hai l'assegno circolare da 100.000 euro lo vai a depositare in un'altra banca e lo chiami un credito, lo chiami 100.000 euro, in realtà lì c'è 90.000 euro di debito. La banca, nel momento in cui genera quel 100.000 euro e prende a te interessi per 100.000 euro, ok? E quando quei 100.000 euro entrano in un'altra banca e fanno 100.000 euro della loro riserva frazionaria, in realtà quei 100.000 euro sono 10.000 euro di soldi che hanno e 90.000 euro di debito, il tuo debito che pagherai fra 20 e 30 anni, con mutuo, che paghi un mese. Lì si è generata ricchezza per la banca, che ha messo in conto il tuo debito che pagherai fra 20 anni, o fra 30 anni, quello che è, ma quel meccanismo genera i soldi. E questo concetto è chiaro. Lo stesso le fanno le banche, cioè l'ha fatto la Fed con tutto il pianeta, perché nelle banche centrali di tutto il pianeta c'erano dollari che la Fed generava con questo sistema. È chiaro il concetto? Semplice, non è complicato da capirsi. Quindi la nostra economia è basata sul debito, perché la liquidità che è necessaria per far girare l'economia è generata dai banchieri nel momento in cui si fanno debiti. nel momento in cui tu fai un debito privato o nel momento in cui un governo deve pagare il proprio debito pubblico. Il meccanismo è identico. Quindi i banchieri hanno interesse a che gli stati si indebitano, non hanno mica interesse che gli stati escano dal loro debito, hanno interesse che gli stati abbiano sempre più debito, perché così loro generano sempre di più questa moneta debito. Allora, ad esempio, per una cosa anche bella, carina da analizzare, se noi andiamo a vedere il codice civile, a proposito di quanto il debito è legittimo o meno, anche quello privato, se noi andiamo a vedere il codice civile e vediamo la definizione di mutuo, capiamo dal codice civile che il mutuo è qualcosa che si contrae, un contratto definito nel momento in cui uno che possiede una cosa la dà a un altro e quindi non ne possiede più i benefici e quindi in quanto tale prende il ricavato del mutuo, no? Il pagamento per mutuo. Ma se le banche mi danno dei soldi che loro non hanno, perché di fatto non li hanno, sarebbe carina da vedersi fino in fondo questa cosa qua. Adesso, traslando questo sul debito pubblico, cosa vorrebbe dire non pagare il debito pubblico? Vorrebbe dire che il nostro debito, che è sempre più in mano a banche che non sono italiane, perché parallelamente il nostro cosiddetto centro-sinistra si è venduto al nostro sistema finanziario, perché è un'altra gamba del neoliberismo, quella fondamentale, era privatizzare. E questo è stato accettato tutto il cosiddetto, la cosiddetta socialdemocrazia, così dire, no? Europea, privatizzare.